Hey. Suona la sveglia, alzo la testa, guardo per abitudine fuori dalla finestra. Quello che ti dà fastidio di me, giuro che non mi interessa. La realtà dove vorrei svegliarmi, in certi giorni mi sa non è questa qua. Sbocco in giro, le gocce sul comodino, un'ombra corre se ne va col bottino. Facevo un incubo e lo continuo da sveglio. Neanche se ne fumo due va meglio. Nel petto il vuoto del Grand Canyon, con la pressione bassa come in aereo. Se il mondo non ci basta, come faremo? A farmi travolgere, lei dice che io faccio male, che dovrei dilazionare. Un tossico passionale, ansia batti cuore. Sono il campione nazionale, una persona in testa fra. Sapessi che gli faccio fare. Vieni tu a fare i conti, che c'ho i pensieri che fanno tremare i porti. Sulla schiena faccio un mucchio di avversari morti, e questi qua mi pensano senza ricordi. Mi hanno tolto tutto, certi manigoti. E c'è chi mi odia perché adesso in mano i soldi. Prima di correre fammi scaricare i corpi, che poi illumino tutto come i fari ai porti. I corvi nello stomaco hanno fatto il nido. La freccia dell'orgoglio a me non m'ha colpito. Vago tramortito fino a che mi faccio schifo. Entro nel sogno anche se il fato me l'ha proibito. No, non esco mai se non c'è qualcosa da fare. Non ho detto mai che fate, andiamo a festeggiare. No, non penso mai di andare 2 o 3 mesi al mare. Non leggo il giornale, non sboccio al locale. Sono preso male, frate, sono preso male. Sono preso male, frate, sono preso male. Che ci posso fare, frate, sono preso male. Fumo un personale, sono preso male. Sono preso male. Suona la sveglia, 4:30, è ancora presto. Ieri la festa, oggi mi scoppia la testa. Vibra il telefono, neanche lo guardo. Penso soltanto, non adesso. Sarà lei che mi stressa, che manco la penso. E le manco da un pezzo, sono stanco, sto fatto e depresso. Dici che è stato un periodo, frate, capita. Che dopo mi abito basta fare pratica. Balanza non passa e ricompare matematica. Annego nel cesso, esasperato. Senti il vuoto nel cuore, un contatore azzerato. Quando sto sedato e parla la mia immagine riflessa come fosse un altro. Con il dubbio nello sguardo tipo forse parto. Sì, forse parto. Ma non so nemmeno dove vado. Con voi sono sempre meno collegato. Essere famoso non ha compensato. Sono ancora solitario, ancora complessato. Piangerò fino alla lapide lacrime che non ho versato. Come tutte le parole che non ho pesato. Tutti i grani comprati e pali negli anni, poi danni collaterali. Le canne grandi tipo le chiese e le cattedrali. I drammi concatenati, ogni sorriso preso ad un filo reciso. Stare male sempre senza un motivo preciso. Il cuore che fa la pressione di chi guarda un attack, di chi scappa dal crack. Tutto questo mi dispiace ma stasera mi sa che non esco. No, non esco mai se non c'è qualcosa da fare. No, non ho detto mai che fate, andiamo a festeggiare. No, non penso mai di andare 2 o 3 mesi al mare. Non leggo il giornale, non sboccio al locale. Sono preso male, frate, sono preso male. Sono preso male, frate, sono preso male. Che ci posso fare, frate, sono preso male.